L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Salve a tutti da Achille Corea, ben ritrovati, questa è l'Italia vista dallo spazio, puntata numero 20. Siamo arrivati alla fine della quarta settimana, che voglio dire, di questi tempi è una impresa eroica, e oggi parleremo proprio di eroi, perché nella nostra ricerca di cose da salvare, di simboli da infilare dentro la nostra astronave che lanceremo nello spazio il 31 agosto per mostrare all'universo, al mondo, agli alieni, a noi stessi, a chiunque, com'è l'Italia, ma soprattutto come vorrebbe e potrebbe essere. Oggi ci occupiamo di un argomento apparentemente leggero e minore, ma non per niente. Io penso che, non sul serio, ecco, dicevo. Io penso che noi abbiamo bisogno, in questo momento soprattutto, di eroi e di qualcuno che ci dica come stanno le cose, e spesso non lo troviamo nella vita reale. E allora lo cerchiamo nei libri, nei film, lo cerchiamo, diciamo, nei personaggi immaginari, e secondo me lo cerchiamo spesso anche nei fumetti. Io non so in che rapporti siete voi con i fumetti, se per voi è una cosa da bambini, se è una questione solamente di nostalgia, se la considerate un'arte minore. Insomma, i fumetti ci dicono spesso molte più cose di quanto non sembri, e i fumetti ci danno spesso degli eroi, dei punti di riferimento e dei racconti non di poco conto. Per questo io in questa astronave vorrei mettere dentro un fumetto. Ovviamente deve essere un fumetto italiano, e ci deve essere una motivazione che dica, insomma, che ci spieghi perché quel fumetto potrebbe rappresentare l'Italia. E per questo motivo io oggi vi chiedo di dirci un fumetto italiano da lanciare nello spazio e di spiegarci perché, chiamandoci all'800 24 00 24. Posto numero 19, in attesa di assegnazione. Ieri, insomma, abbiamo parlato di personaggi storici, abbiamo pensato di mandare nello spazio un busto, ci sono state molte segnalazioni ieri di diverso tipo, e qualcuno ha detto Berlusconi, ovviamente. Io, prima della fine del programma, devo fare una lista delle puntate in cui siete riusciti a non citare Berlusconi, e una cosa tipo Fazzi e Saviano, sai, lista di puntate in cui non avete citato Berlusconi, e sono pochissime. Credo che tipo anche nel prodotto tipo abbiate detto Berlusconi, nella puntata sulle donne qualcuno ha citato Berlusconi, e vabbè, però io, ovviamente ieri c'erano delle citazioni, ma minori, anche divise tra chi lo voleva mandare nello spazio come orgoglio e chi ovviamente è perché diceva meglio lì che qui, e invece insomma citazioni e motivazioni importanti per i nostri scienziati del passato, Galileo, Marconi, Leonardo, citazioni per Pertini. Alla fine, insomma, il personaggio più citato era anche prevedibile, è stato Garibaldi. E poi abbiamo parlato ieri anche di Anita Garibaldi, dei garibaldini, e allora io farei così: invece di mandare un busto, che magari è una cosa che serve a poco, io ci manderei la camicia rossa dei garibaldini, perché magari è anche una cosa che, se uno volesse, potrebbe anche usare oggi o domani per qualche motivo. Quindi facciamo così: camicia rossa dentro una di quelle teche di vetro con scritto "in caso di necessità rompere il vetro". Posto numero 19, assegnato. Super GT, più veloce di Mi, Astrojet, Jumbo Jet. Eroi di cartoni, dicevamo, è proprio il titolo di questa canzone di Lucio Dalla. 800 24 00 24, o anche via sms, stanno arrivando i primi voti, le prime segnalazioni al 349 238 6666. Noi oggi affronteremo l'argomento da vari punti di vista, perché le possibilità sono tante, sono diverse. Il primo punto di vista lo cerchiamo insieme a uno scrittore, autore, sceneggiatore di fumetti, e Tito Faraci. Benvenuto. Ciao a tutti, eccomi qua. Eccoci, tu hai sceneggiato e scritto, insomma, per una serie di fumetti molto importanti: Topolino, L'Uomo Ragno, Paperinik, e poi alcuni che sicuramente sono tra i candidati maggiori, diciamo, nella puntata di oggi: Dylan Dog, Diabolik, Zagor, Magico Vento. Già fare questo elenco mi fa venire in mente che forse dovremmo ricordarci più spesso che la produzione italiana di fumetti è abbastanza importante. No, è una le più grandi del mondo, no? Ti correggo, ma nel senso perfezionando la cosa, pensiamo a quattro colonne che reggono tutto il fumetto mondiale, sono l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti e Giappone, cioè proprio massimizzando, e i fumetti italiani vendono numericamente quanto, non so, più dei fumetti americani, per dire, il più venduto fumetto in America, dove ci sono 350 milioni di abitanti che potrebbero comprare fumetti, ecco, vende meno del più venduto fumetto in Italia, dove sono soltanto, fra virgolette, 60 milioni. Quindi, insomma, il fumetto rappresenta anche, uso una parola che magari raffredda un po' le cose, comunque un'importante industria, industria culturale, sembra un po' contraddittorio dirlo, ma spero che ci siamo intesi, italiana. No, no, e ma poi, diciamolo, perché, insomma, intanto una delle cose, insomma... Prima tu hai citato, sì, Topolino, mettendolo quasi a parte, no? Invece, pensa che la maggior parte dei fumetti disneyani, più del 75%, disegnati, sceneggiati e soprattutto letti in tutto il mondo, vengono prodotti in Italia. Stiamo parlando del 75% almeno di tutti quei fumetti disneyani che circolano in tutto il mondo. Quindi potremmo definire perfino Topolino un personaggio italiano, perfino Paperino o Paperinic e la banda Bassotti. Beh, no, se non sbaglio ci sono anche dei personaggi proprio inventati in Italia in Topolino e... Ma certamente. Per esempio Paperinic, tanto per uno dei più popolari, non si sa, è una cosa che sanno gli appassionati, sono tanti cultori disneyani, ma è un personaggio totalmente inventato in Italia. Oppure, non so, me ne penso uno simpatico, Trudy, non che Paperinic non lo sia, se è chiaro, Trudy, la compagna di Gamba di Legno, coppia di fatto del fumetto. Sì, diciamo che sulle coppie dei disneyane ci sarebbe tutto un discorso da fare, cioè non c'è uno che sia figlio, sono tutti nipoti, però magari ci dilunghiamo. Tito, io sono contento di questa cosa che hai detto, perché secondo me è anche importante ricordarci alcune cose in cui siamo bravi, a cui magari non pensiamo spesso. Ma sul fumetto arriviamo perfino bravissimi, mi verrebbe da dire. Ti chiedo a questo punto, in tutto questo, diciamo, in questa ampia possibilità di scelta, qual è il personaggio, il fumetto che hai scelto tu per noi? Ma con grande difficoltà, ma nello stesso tempo con una abbastanza con la sicurezza che possa essere alla fine il vincitore, ho scelto Tex Wheeler, cioè l'emblema del fumetto italiano, il personaggio che vende di più popolare, un eroe, hai detto prima giustamente, inventato da Gianluigi Bonelli nel 1948, portato avanti a tanti autori, anch'io con grandissima timidezza, con grandissima paura e con grandissimo orgoglio, soprattutto lo sto scrivendo con altri bravissimi autori in questo momento, e che rappresenta un eroe ma anche un amico, ecco, cioè il lettore italiano, i tantissimi lettori di Tex ritrovano in edicola tutti i mesi, a volte più di una volta al mese, perché Tex esce in varie forme, in vari formati, trovano un eroe che è anche un amico, uno di cui si fidano, e io credo che non ci sia lettore di Tex, in un certo senso non ci sia autore di Tex, che non sogni ogni tanto, che non pensi ogni tanto che Tex dovrebbe essere lì, dovrebbe dargli una mano, no? Perché Tex proprio se la prenderebbe, risolverebbe i problemi che a tutti noi capita di avere con prepotenti, con chi se ne approfitta, con chi in alto o molto in alto, anche con chi vicino a noi fa dei piccoli o grandi soprusi. Ecco, Tex è veramente un eroe che, per quanto viva nel Far West, per quanto sia lontano nel tempo e nello spazio e nel mente, il lettore sente molto vicino, sente come amico, e questo è proprio il suo miracolo. Ti volevo chiedere una cosa, è un'osservazione, insomma, non originalissima, però mi sento di fartela e di chiederti: come mai la maggior parte di questi eroi inventati in Italia hanno bisogno di un'ambientazione estera? Penso a Tex nel Western, ma a Dylan Dog che vive a Londra, a Martin Mister, insomma, ha avuto delle avventure in Italia ma non ci vive. Secondo te qual è il motivo? Innanzitutto c'è una tradizione di un racconto popolare avventuroso che in Italia nasce in un autore come Salgari, soprattutto molto del fumetto avventuroso italiano arriva in qualche modo da questa tradizione, e l'avventura raccontata da Salgari è un'avventura esotica, dove comunque si svolgeva lontano, no? E poi questi luoghi sono luoghi che in realtà l'America, il Far West di Tex, come in un certo senso che la Londra di Ian Dog, per dire, oppure la Clairville, la città inventata di Diabolik, sono luoghi dell'immaginario, cioè sono dei luoghi che appartengono a tutti noi, il Far West, il Western, no? Appartengono a tutti, non sono soltanto dell'America, degli americani, tanto vero che in Italia abbiamo un esempio, che il cinema, lo spaghetti western, in particolare quello di Sergio Leone, che ha saputo reggere e anzi a volte supera il confronto con quello che era il cinema western americano nell'epoca in cui era emerso. Beh, questo insomma forse è vero, ci aiuta diciamo quasi a sentirli più nostri, il fatto che siano più lontani, non sono sporcati diciamo dalla nostra... Non li allontana, li pone in un luogo leggendario, mitico, e poi insomma il mito tutti ce lo sentiamo vicino, ecco, il mito magari è nemico della storia, però ci è vicino, lo sentiamo, appartiene alla fantasia, all'immaginario di tutti noi. Tito, io ti ringrazio per questa scelta, cercheremo di fare nel resto della trasmissione anche un po' di citare più fumetti, tanto stanno arrivando molti messaggi, stanno arrivando le telefonate, e di dimostrare anche che insomma è abbastanza viva la nostra scena, anche se purtroppo proprio negli scorsi giorni ha perduto un protagonista, un grande disegnatore che insomma so che è una perdita che ti ha colpito, stiamo parlando di Sergio Toppi. Infatti volevo dedicare almeno qualche parola, in questo momento la perdita di Sergio Toppi è molto dolorosa anche perché era un'ottima persona, ma nel stesso tempo riempie di orgoglio me, chiunque fa questo lavoro, ma anche tutti i lettori, perché è stata sentita dolorosamente, è stata celebrata in tutto il mondo, cioè ci siamo resi conto, cosa che sapevamo, ma che comunque in questo modo, in questo momento pur doloroso, ci è stato ricordato da tutte le parti del mondo che Sergio Toppi è stato uno dei grandi maestri italiani del fumetto, che sono stati tanti, importanti, e che hanno lasciato un segno profondo e lungo. Va bene Tito, grazie, ti ringrazio anche per questo, grazie a Tito Faraci per essere stato con noi. Grazie a voi. Dicono che venisse dal nord, come il vento gelido che spazza durante l'inverno le pianure della grande prateria. Tex Willer, dalle estreme regioni delle montagne d'argento. Eccolo qui, Tex Willer, in un film non fortunatissimo, dobbiamo dire la verità, in cui era interpretato da Giuliano Gemma. Non sapevo che non dovevo provocarvi, perché è arrivato subito l'SMS che dice il fumetto è Berlusconi perché è una caricatura. Non niente, anche questa puntata non entra nel mio scarno elenco. Vabbè dai, stiamo parlando di fumetti, di cose più serie. Fatemi sentire un ascoltatore che è Francesco da Venezia. Pronto? Pronto? Eccomi qua. La scelta, Francesco, qual è? Mi sono accorto che forse sono un po' fuori tema, non è proprio un eroe, ma una serie di personaggi. Io no, va bene, va bene. All'opera di Francesco Pazienza. Di Andrea. Andrea Pazienza, sì, perdono, stavo pensando a me. Andrea Pazienza. Questa è una forma di identificazione con l'autore, non male. Infatti, no, adesso non mi identifico con Zanardi, per carità. Però infatti non pensavo a Zanardi in particolare, ma pensavo a tutta una serie di personaggi minori, in particolare anche agli amici di Zanardi, perché ho pensato che potessero essere in qualche modo uno specchio, non me ne vogliono i miei connazionali, uno specchio nostro, cioè personaggi che magari apparentemente negativi o che non sembrano essere degli esempi di virtù, ma che sono capaci di gesti di eroismo o di riscattare un'esistenza. Bene, bene, la ringrazio Francesco, e secondo me è un'utile puntualizzazione questa di Francesco, non solo eroi in senso classico, ma insomma la produzione di fumetti italiana, insomma ne parliamo tra pochissimo, ha varie sfumature. Viabilità e torniamo tra poco. L'Italia vista dallo spazio. Va bene, allora mi parli di Apocalypse Now. Sì. Dunque, Apocalypse Now, regia di Francis Ford Coppola, musica dei Doors. Dunque, e questo è il film tratto ispirato ai fumetti di Pazienza, Paz. Abbiamo un po' di difficoltà in Italia a trarre film dai fumetti, insomma magari ne parliamo anche dopo. Intanto leggo un po' di vostri messaggi, siamo in bilico tra la nostalgia, quella che sicuramente porta Mauro da Reggio Calabria a scegliere l'uomo della Lagostina o il signor Rossi di Bozzetto, e cose molto più moderne, tipo su Twitter ci suggeriscono Zero Calcare, anche su Facebook è un vignettista romano, un disegnatore romano giovane, molto giovane, meno di 30 anni mi pare, molto bravo. Insomma ci sono varie cose e ripeto, insomma abbiamo iniziato parlando di eroi, ma il fumetto, i disegnatori italiani insomma sono in grado di produrre molte cose, dalla vignetta satirica alle strisce a veri e propri albi, insomma che basta ci pensare a quelli quelli di prima, abbiamo citato da Tex a Zagor a tutta la produzione disneyana italiana. E quello che vi chiedo di dirci è: qual è la cosa che lancereste nello spazio? La vostra scelta all'800240024. Tra poco avremo un disegnatore che ci darà il suo punto di vista, ma intanto c'è un appassionato, lo conoscete per essere un conduttore televisivo, è con noi Marco Liorni, pronto? Ciao, buongiorno, ciao, buon pomeriggio anzi. Eccoci Marco, sì. No, l'abbiamo perso. Marco mi sa in giro, quindi abbiamo magari un po' di difficoltà ad averlo. Intanto sentiamo un ascoltatore all'800240024, Francesco da Torino, pronto? Buonasera. Buonasera, qual è la sua scelta? Alan Ford, il gruppo TNT di Max Bunker e di Magnus. Perché? Io lo ricordo, insomma, anche se ormai da una volta c'era anche andava anche in televisione il gruppo TNT. Qual è la motivazione? In effetti nel 1977 vidi a Super Gulp, la trasmissione televisiva, questa animazione. In realtà il fumetto si rivelò essere, soprattutto nei primi 75 numeri disegnati appunto da Magnus e sceneggiati da Bunker, un molto più complesso spaccato della società italiana, però trasportato sulla Quinta Avenue a New York. Era un modo, lei si ricorda forse il protagonista, Alan Ford, aveva la sembianza di Peter O'Toole. Ma che cosa, in che modo, mi chiedo sintesi, in che modo rappresenta l'Italia Alan Ford? Primo perché utilizzava molti termini del dialetto lombardo a me allora sconosciuti, tipo missione d'Asciuri, perché c'era una specie di ricerca della giustizia attraverso mezzi scarnissimi, faceva proprio da contraltare rispetto ai James Bond dotati di macchine e armi super tecnologiche. Invece questo gruppo di scalcagnati, diciamo un'armata da Brancaleone a fumetti, sintetizzo così. Grazie Francesco da Torino. Insomma, anche Alan Ford era un fumetto italiano ma con un'ambientazione straniera, forse quello ci aiuta sui fumetti. Marco Liorni è di nuovo con noi? Sì, eccoci. Eccoci Marco. Allora, qual è... Sono appassionato del gruppo TNT, di Alan Ford, del gruppo TNT. Sì, sappiamo che anche se insomma non ti occupi di fumetti professionalmente, ho letto che insomma soprattutto d'estate insomma li ritiri fuori e ti piace riscoprire anche quelli vecchi. E per questo sono curioso di sapere qual è la tua scelta, qual è il fumetto italiano che hai scelto per noi. Allora, quello che ho scelto è Mino Manara, le tavole di Mino Manara, quindi comunque il corto maltese, ecco, questo è quello che mi piace a me, quelle atmosfere, quei paesaggi, quei posti, anche qui è un'ambientazione, è come nel gruppo di NP, anche se completamente diversa, è un'ambientazione esotica, comunque un'ambientazione straniera, questi mari del sud, no? Affascinanti di corto maltese. Cosa? Sì, scusa, dimmi. No, a proposito del gruppo di NT di fumetti che ritirati fuori d'estate, io ho la fortuna di avere un papà che viene dal mondo dei fumetti e sta in pensione, però insomma ha portato in Italia Mandrake, meglio conosciuto come Mandrake. Sì, Mandrake. Poi sì. L'uomo mascherato, quindi Phantom, che era francese, il fumetto è stato portato in Italia come uomo mascherato. Poi Cine Franco, Rip Kirby, Johnny Azzardo. Quindi ogni tanto ritrovo per casa l'avventuroso, le tavole dell'avventuroso, sono c'è qualcosa che ti manca secondo te di quel periodo, di quelle tavole, qualcosa che sarebbe diciamo utile anche oggi? Sì, il fumetto ha un fascino particolare, quindi però, e poi tra l'altro potrebbe anche essere molto moderno. Per esempio tempo fa c'era questa idea, tra l'altro era mio padre, di fare un free press proprio di fumetti, perché sono perfetti per esempio i viaggi in metropolitana, no? Perché tu lì nel giro di pochi minuti ti leggi una storia, ci puoi mettere tutta la tua immaginazione e poi c'è il fascino del fumetto. Solo che allora lui trovò, questo tanto per raccontare un po' qual è lo scenario, trovò molti disegnatori in Spagna, perché la Spagna mi sembra che anche nell'America del Sud lo sia, però la Spagna è un posto in cui ci sono grandi, grandi disegnatori di fumetti. In Italia un po' meno, ma per il fatto che c'è poco mercato e quindi... Sì, anche se vedremo noi col prossimo ospite che probabilmente una generazione emerge, e io spero che insomma magari serva anche a rilanciare progetti come quelli che dici tu. Marco, ti ringrazio, ti sento anche un po' così. Grazie così. Grazie di essere stato con noi. Ciao. E andiamo avanti. Quel voto di Marco Liorni era per Corto Maltese. Questa era proprio una canzone di questa state sentendo, una canzone del gruppo dei Mau Mau dedicata a Corto Maltese. Ci sono una serie di voti per Iacovitti, ci incitano a non dimenticarlo. Su Facebook ci dicono che racconta molto dell'Italia, ma noi parlavamo del presente, di una nuova generazione, una nuova ondata di sceneggiatori. Ne parliamo con Marco D'Ambrosio, meglio conosciuto come Maccox. Benvenuto. Ah. Eccoci, Marco. Voi. Ciao. Allora, Marco, sai, insomma, tu sei un vignettista, cioè le tue vignette si trovano sul post.it, su Internazionale, e diciamo forse sei anche il capostipite del fatto di un gruppo di fumettisti che sono emersi anche e soprattutto tramite internet. È una nuova risorsa, una nuova ondata. Capostipite no, però è così, rappresentativo un po' sì, perché io mi sono espresso al meglio secondo me su internet, quindi posso dire che da lì qualcosa esce, per esperienza personale e anche per quello che vedo in giro. Senti, qualcosa da salvare insieme ai grandi che ho sentito finora. Beh, i grandi, insomma, io mi interesserebbe molto dire che oltre ai grandi c'è anche qualcosa di adesso, perché quelli magari li diamo un po' per scontati. Qual è la tua scelta? C'è un grande assoluto, perché magari tante promesse si intravedono, però c'è un grande affermato che può stare vicino a tutti quelli che sono stati nominati, cioè Rico Pratt, Crepax e compagnia bella, che è Gipi. Gipi è assolutamente grande. Non è una promessa. GP è l'autore della Mia vita disegnata male, anche il regista. La mia vita disegnata male, sì, esattamente. Anche sì. Regista di un film interessante come L'ultimo terrestre. Che cos'ha GP che lo rende grande, che lo rende secondo te degno di stare insieme ai grandi? Per me che è assolutamente lui, assolutamente se stesso, e ci arriva attraverso una ricerca personale. E poi che il suo disegno è scrittura, non c'è una parte disegnata e una parte scritta. Lui scrive le facce, i volti, i paesaggi, i personaggi sono scritti. Adesso questo è difficile da spiegare, però sì. È tutto calligrafia. Io so che parlare di fumetti alla radio poi a volte può sembrare quasi un controsenso, sì, ma per me la speranza è anche che i nomi che sentiamo in questa trasmissione poi vengano ricercati su Google e in edicola, e si venga a scoprire anche qualche nome nuovo. Io volevo approfittare della tua presenza anche per chiederti, noi abbiamo questo mantra che ogni tanto tiriamo fuori, che per portare qualcosa nello spazio bisogna essere disposti a lasciare qualcosa qui, se invece c'è qualcosa dell'attuale stagione dei fumetti italiani, del disegno italiano, che non ti piace e che secondo te potremmo tranquillamente lasciarci alle spalle? Ah, ma più che altro per il peso, io mi lascerei tutti di Van Dolby, tutto quello che rientra in quella formula. Adesso Tito Faraci avrà fatto una faccia bruttissima, però veramente solo per una questione di peso, a meno che uno non li voglia utilizzare come carburante, ecco, in quel caso avrebbero un'utilità. questa è forte come cosa. Sì. No, ma me come... ne sono nutrito. Sì. No, è come poi sono guarito. Va bene, ma tu dici sono passati anche anni, e quindi io capisco che se parliamo di novità magari non è quello di bruciare i fumetti, di usarli come carburante non se ne parla, perché sennò finiamo in un romanzo di Bradbury. Sì, esattamente. E quindi no, non se ne parla, sono passaggi e sono fasi. Io ti ringrazio, insomma, i tuoi fumetti si trovano online con il nome Maccox, grazie a Marco D'Ambrosio. Fumetti, disegnatori, ovviamente citazioni arrivano anche per grandi vignettisti italiani, Altan, LK, insomma, Ortolani, Leo Ortolani e il suo Ratman è citato soprattutto su Twitter e su Facebook. Prendo un ascoltatore, l'ultimo, Luigia da Venezia, benvenuta. Grazie, buona giornata a tutti. Io volevo ricordare Bonvi e le Sturmtruppen. Ah, grandissimo. C'è stato anche un tentativo cinematografico. Da quasi 40 anni. Però sono gli unici fumetti che non mi stancano mai. E se posso chiudere, per Luigia Grazia, sono anche dei fumetti che, parlando di finti tedeschi, ci dicono veramente un sacco di cose di noi. Continuate a votare su Facebook e su Twitter, l'hashtag è Dallo Spazio. Grazie a tutti da Achille Corea, ringrazio Alessandro Chiappini, ringrazio Antonella Migliaccio, soprattutto ringrazio voi per averci ascoltato. Posto numero 20, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.